Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Ci sono tanti modi per ottenere una rendita, magari anche modesta, ma comunque sicura, una rendita che può essere legata ad una casa di proprietà, ma anche alla casa nella quale si abita e che non necessariamente deve essere data in affitto ad un'altra persona. C'è chi, ad esempio, prassi molto diffusa, per esempio nelle città universitarie, affitta una camera. Oggi noi andiamo oltre. Perché? Perché abbiamo tratto spunto da un lavorone fatto ieri dalle Sole 24 Ore che ha dedicato l'inserto Affari Privati ad un'inchiestina molto interessante, oltre che piena di informazioni utili, a quelli cioè che ha definito piccoli business fatti in casa. Sono molte le opportunità per realizzare fra le mura domestiche attività che diano luogo ad entrate integrative, dalla cucina alle pubblicità sullo stabile, agli accorgimenti necessari, tutti gli accorgimenti necessari e possibili ricavi. E chissà che in questo momento in cui qualcuno ha magari la necessità di individuare delle entrate extra, chissà appunto che oggi non riusciamo a far venire alle nostre famiglie all'ascolto qualche idea interessante, perché le opportunità sono molte, ma anche in questi casi parliamo di campi nei quali è bene non improvvisarsi. Per esempio, abbiamo una casa grande, vogliamo trasformarla in un bed and breakfast oppure in un temporaneo set cinematografico. Oggi vi spiegheremo come fare e anche quanto si può guadagnare, perché in fin dei conti quello è quanto ci interessa. E allora 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, che io girerò intanto alla nostra Rossella Cadeo del Sole 24 Ore, che ha coordinato le due pagine di Affari Privati di ieri. Rossella, ciao, bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Collegamento telefonico con noi Stefano Calandra, presidente dell'AMBA AICAV, Associazione Nazionale di Categoria Riunite dell'Ospitalità Extra Alberghiere, quindi l'Associazione dei Bed and Breakfast Italiani. Calandra, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Un altro esperto di Bed and Breakfast, in questo caso il titolare di bedandbreakfast.it, Giambattista Scivoletto, che abbiamo già avuto in un'altra nostra trasmissione e lo avevamo invitato a parlare della settimana del baratto dei Bed and Breakfast. Scivoletto, bentornato. Grazie e buongiorno a tutti. E infine questo nostro foltissimo gruppo di ospiti si arricchisce anche della presenza di Bruno Rosa, location manager e responsabile dell'agenzia Set Service, un'agenzia alla quale ci si può rivolgere se vogliamo dare in affitto la nostra casa per trasformarla in un set cinematografico. Rosa, anche lui un altro ospite di un'altra nostra precedente trasmissione, bentornato, buongiorno. Grazie. E allora, vi ho ricordato i numeri verdi, il numero verde per intervenire, vi ricordo che ci potete girare anche delle domande al 349-238-6666 per esaudire le vostre difficoltà, le vostre curiosità in questi settori. Stamattina sarà che ancora continua a piovere, la lingua è intrecciata. E allora la borsa stamattina scende inevitabilmente dopo i rialzi eccezionali vissuti ieri, seguiti al varo da Bruxelles del piano di stabilizzazione dell'area euro. Il quadro vede stamattina un ribasso di quasi 2 punti percentuali su Parigi, Francoforte perde 1 punto, Londra -1,77, Milano -1,84% sul FTSE MIB. Come dicevamo però nel corso del giornale radio, è soprattutto sul mercato valutario e su quello obbligazionario che stanno ritornando alcune tensioni. L'euro è riscivolato sotto quota 1,27 stamattina, ieri aveva riconquistato improvvisamente 1,30 e si è portato stamattina 1,2667, adesso riacciuffa 1,27, ma c'è ancora un certo fermento che è sfavorevole alla moneta unica europea. Mentre sul mercato obbligazionario sono tornati a salire i rendimenti dei titoli di Stato greci, ma stamattina un buon rendimento lo ha spuntato anche il bot annuale italiano. C'è stata un'asta stamattina con un importo di 5 miliardi e mezzo di euro offerti dal Tesoro italiano. L'importo richiesto dagli investitori è stato il doppio, quindi il Tesoro è riuscito a piazzare tutto e il rendimento dei titoli piazzati si è portato all'1,44%. Piazza Affari, migliori titoli Telecom +2, Exor +2, Finmeccanica +1,20. I ribassi sono quasi tutti concentrati sulle banche che ieri sono esplose: Banco Popolare -4,41, Azimut -4, Popolare di Milano -4, Intesa -4, in calo del 3,86% anche Italcementi, -3,5 punti per Mediobanca e Monte dei Paschi. Quindi giornata da monitorare ancora attentamente in attesa della riapertura di Wall Street. E noi lasciamo la borsa e ritorniamo al tema di oggi. Sentiamo un po' come possiamo mettere a rendita la nostra casa. Avviare un'attività professionale utilizzando la propria casa o semplicemente sfruttare le mura domestiche per arrotondare lo stipendio è una via intrapresa sempre più comunemente. E le modalità per farlo sono numerose e varie. Dal tradizionale bed and breakfast all'affitto di stanze come location per spot televisivi o film. Ma anche la messa a disposizione delle pareti esterne dell'abitazione per affissioni pubblicitarie o l'apertura della propria cucina ad ospiti paganti in cambio della trasmissione di ricette locali o di un semplice pranzo in famiglia. Tra le attività più diffuse e redditizie, ma anche più impegnative, ci sono i bed and breakfast, ovvero la scelta di trasformare la propria abitazione in una sorta di albergo che offre appunto camera e prima colazione tra le mura domestiche. Aprire un'attività di questo tipo richiede naturalmente capacità organizzative. Per il resto, avviare un bed and breakfast è relativamente semplice, anche se le regole e gli accorgimenti da prendere variano da regione a regione, con un solo punto fermo in comune, la residenza, come requisito base. Un altro fenomeno in rapida espansione è l'affitto delle proprie mura domestiche come set, per esempio, per serie TV o film. In questo caso non occorre necessariamente avere una villa da sogno. Per girare film, fiction, ma anche per realizzare pubblicità, video musicali o servizi fotografici, il mondo delle location ha bisogno di interni di tutti i tipi. 800 24 00 24, raccontateci se avete la casa adatta ad essere utilizzata anche per questi impieghi, per questi usi, e soprattutto vi spiegheremo quanto si può guadagnare anche attraverso queste modalità di utilizzo della propria abitazione. Allora, Rossella Cadeo, il Sole 24 Ore, noi abbiamo parlato soprattutto del set cinematografico, del bed and breakfast. In realtà voi di curiosità ne avete trovate tante. Sì, ci siamo spinti a esplorare un po' di possibilità fantasiose, ma non solo fantasiose, ricordiamo, speriamo anche praticabili. Praticabili, insomma. Non occorre, tra l'altro vogliamo sottolineare subito, avere appartamenti enormi, case enormi o particolarmente lussuose. E insomma, non sono tutte beautiful le nostre esatto. abitazioni. A volte basta avere una camera in più oppure una camera, una stanza, un'ambientazione che si presti a qualche particolare tipo di ripresa televisiva, di fiction o di spot pubblicitari, se pensiamo appunto alla location TV. Ricordiamo però anche che, come hai detto tu all'inizio, non bisogna improvvisarsi, bisogna sempre informarsi bene su quali sono le regole, quali sono le conseguenze, leggere eventuali condizioni contrattuali che possono essere limitative per il proprietario di casa e tener conto comunque che la rendita che si può ricavare da queste attività non è stratosferica, se non in alcuni casi, e si tratta di reddita aggiuntiva, una forma per integrare altri tipi di entrate. Anche a fronte, ricorderei Rossella, dell'impegno che si deve assumere qualche volta in queste circostanze, perché sicuramente un bed and breakfast è molto interessante, magari ti può portare a casa tanti ragazzi, tanta gioventù che sono alla ricerca in genere magari di una camera, una colazione ad un prezzo ragionevole, ma è comunque un impegno la mattina alzarsi, preparare le colazioni per queste persone. Non è che possiamo assumere della servizio tu anche per fare questo. Assolutamente. Ecco. E poi sì, si tratta di un impegno ed un impegno costante nel tempo. Non è che una volta avviato il bed and breakfast l'attività è avviata ed è tutto a posto. Bisogna guardare bene la concorrenza, mantenere un certo livello di qualità e tener conto delle esigenze degli ospiti e quindi pensare che si tratta comunque di un piccolo lavoro. Certo, sono degli impegni. Stefano Calandra, presidente dell'AMBA ICAV, l'AMBA con due B, l'associazione proprio dei bed and breakfast italiani. Quanti associati avete e soprattutto insomma come sta andando anche questo momento? Credo che anche forse, come dire, il frangente economico un po' delicato, un po' problematico abbia favorito l'arrivo di molte persone presso le vostre strutture, ne stanno nascendo altri, insomma a che punto siamo nel nostro paese? Buongiorno a tutti, ma la situazione è una situazione di recessione, dal punto di vista della domanda certamente ha colpito di più gli albergatori del nostro comparto, che è costituito da micro aziende, quando anche addirittura senza partita IVA, quindi strutture commerciali occasionali, e che reggono meglio, diciamo, l'urto della mancanza di domanda, perché assottigliando pure il periodo annuale di lavoro magari si lavora non più per alcuni casi 10 mesi, ma magari solo 7-8 mesi quest'anno, la riduzione in percentuale delle entrate, dei ricavi ed anche delle presenze è minore rispetto agli alberghi, cioè il nostro settore piccolo tiene di più, più forte. Quindi l'anno scorso i dati ufficiali dell'Istat insieme all'osservatorio turistico e alberghiero che è in sede all'AMBA danno come calo fatturato del 6% e un calo delle presenze del 10%. Cioè, quindi anche questa tenuta rispetto alla crisi potrebbe in questo momento spingere qualcuno, no, magari a così impiegare una stanza della propria, impiegare parte della propria abitazione a questo utilizzo. Insomma, è un momento in cui incoraggiare queste scelte, Calandra, o no, secondo lei? Dato anche l'impegno di cui parlavamo prima con Rossella Cadeo, poi ci dirà che cosa è necessario fare per, sì, per aprire un bed and breakfast. Sì, d'accordo, ma è un distinguo, io farei un distinguo, incentivare sicuramente sì, sulla politica nazionale del B&B, AMBA fa parte della commissione permanente della qualità in campo alla Unione Camere, Camere di Commercio, si è deciso di comportarsi in questa maniera, cioè di incentivare l'apertura di B&B di qualità, cercando quindi di fare formazione, di, non obbligatoria, ma comunque e ai soci viene dato un enorme numero di informazioni gratuite, comprese nella quota associativa, per le aziende che vogliono associarsi. In Italia sono circa 700 le aziende associate all'AMBA, B&B, affittacamere. E fare in modo che la politica anche locale, comunale, per esempio penso a Roma, penso a città come Roma, Napoli, ma anche Catania, altre zone d'Italia, ci sia una politica di ridimensionamento dell'offerta B&B tramite proprio un'operazione di formazione agli operatori e di promozione della qualità anche col marchio Isnart delle Camere. Benissimo, una certificazione di cui parla ampiamente anche il Sole 24 Ore di ieri. Lo immaginavamo, abbiamo letteralmente scatenato stamattina intanto tutti coloro che hanno una bella casa e che vorrebbero farla diventare un bel set cinematografico. Adesso vi diamo tutte le dritte per poterlo fare, poi ci sono anche molti curiosi sull'apertura di un bed and breakfast. Stamattina veramente la lingua mi si inceppa completamente. C'è un'ascoltatrice che ci scrive, Mara, e ci dice: potrei offrire la casa al lago dove c'è spazio e un barbecue a persone che vogliono organizzare cene o pranzi, così mi pagherei le spese di questo immobile. Mi frena però l'aspetto normativo e fiscale, che dovrei gestirmi da sola. Come fare con Rossella Cadeo da Vipere, quale siamo naturalmente, abbiamo pensato, Mara, perché Rossella non si gode questa bellissima casa? No, a parte questo, io direi che un commercialista, un ragioniere le può sicuramente dare una mano a trovare tutte le informazioni necessarie per poter impiegare la sua abitazione in questo modo. Mara, magari siccome la sua non è una richiesta per un set cinematografico, un bed and breakfast, ci scrive, magari cerchiamo noi tra il nostro folto gruppo di commercialisti a disposizione di poterle magari indicare una persona che la possa aiutare. E allora, prima di sentire Rosa e Scivoletto, che ancora non ho sentito, per le location di set cinematografici e per sempre il settore dei bed and breakfast, sentirei un paio di ascoltatori, perché ce n'è soprattutto uno che voglio sentire Francesco d'Ancona. Buongiorno. Lo so che ancora te è cara, Lo so, Francesco, ma a parte questo, io però non ho ad Ancona, ho la mia famiglia che ha un'altra casa, ma non ha sicuramente, come dire, la situazione sua particolare. Ma hai capito dov'è Debora? Ancona? No, hai capito cos'è quello che mi riferivo io? Te dovresti averlo capito. Mi dia qualche indicazione in più, Francesco, così ci penso e lo facciamo capire a tutti, magari. Dal porto verso l'autostrada, lì lungo sul lungomare, quelle palafitte, quelle che prima ce n'erano molte. No, sì. Una di quelle. Una palafitta, insomma, praticamente poco distante dalla riva del mare. Sì, Francesco, cosa ci vuole fare? Allora ti dico subito, saranno 150 metri dal mare, ci si arriva solo in barca o dal mare aperto o dalla parte interna, e una piattaforma di circa 200 metri quadrati. Ecco, stabilito che il bed and breakfast lì non ce lo possiamo fare. No. Ma Francesco l'ha ricevuta in eredità questa cosa, o se l'è comprata per conto suo? No, una passione. Una quindicina di anni fa. L'ho acquistato una quindicina di anni fa, però non ho molto tempo per andarci, allora cercavo in qualche modo di utilizzarla, ma è veramente una cosa estremamente particolare. Originale, infatti. Francesco, si fermi lì che vado subito da Bruno Rosa, responsabile dell'agenzia Set Service. Avete nel vostro, come dire, catalogo di offerta di set cinematografici disponibili anche delle palafitte, Rosa? Vi interessa allora l'articolo? Anche per la fitta, è un'eccezione, non capita spesso, insomma. Beh, per un bel film, una bella fiction magari un po' rocambolesca, avventurosa, potrebbe essere anche necessario, no? Va bene, ma ci ho detto, saranno dei casi speciali, non so, in linea di massima ci servono tantissime tipologie di ambienti, perché dalla villa prestigiosa all'appartamento modesto a una baracca dove c'è una sparatoria, ci serve un po' di tutto, uffici. E di conseguenza siamo pronti a ricevere le vostre proposte. La segnalazione di Francesco, che cosa fa adesso, a parte mettersi in contatto con lei, ma magari gliela facciamo fotografare Rosa, le facciamo inviare qualche foto intanto per velocizzare un po' l'operazione. Io ecco, per questo direi manderei una nota informativa come fare le a foto a tutti quanti. Mirate, sì, benissimo, mirate proprio al nostro lavoro, perché i registi sappiamo come vogliono vedere queste location, no? Quindi delle panoramiche, quelle foto così frammentarie o sfuse purtroppo non servono a nulla e quindi vanno fatte in un certo modo. Quindi è inutile intanto che Francesco si metta lì all'imbrunire per cogliere il tramonto, perché non è necessario, che faccia qualcosa di più concreto, ecco. No, aspetti un'email da noi con la nota informativa di come fare le foto. Vedrà che i risultati ci saranno, perché è facilissimo, ognuno di voi può farlo tranquillamente. Bene, senta, trasformare la propria casa in un set, intanto quanto può far rendere? Noi siamo a Salvadanaio, lei lo sa, dobbiamo sempre molto concretizzare i nostri discorsi, quindi quanto può far rendere una famiglia, ecco, che può mettere a disposizione la sua abitazione per questo uso? È una cosa che molti non sanno, infatti, perché proprio il cinema offre, siccome i teatri di posa ormai non vengono più usati se non per trasmissioni televisive registrate o meno, eccetera, allora si va in queste location disponibili di varia tipologia, come diceva prima. E quindi c'è una media, siamo dai 1.000 ai 3.000, 4.000 euro al giorno. Al giorno. Ecco. Certo, perché praticamente dipende dalla tipologia, è come nell'immobiliare ovviamente, no? C'è una scala di valori in tutte le cose, e quindi anche negli ambienti, diciamo, c'è questa, se è un appartamento di periferia purtroppo sarà così minimo il rendimento, ma per modo di dire, perché 1.000 euro in un giorno, insomma. No, non sono pochi, però va anche detto, Rosa, dobbiamo essere molto onesti in questo, che l'arrivo di una troupe cinematografica in un'abitazione non è esattamente l'arrivo di una persona che si viene a prendere un tè, ci può veramente ribaltare completamente tutta la casa, per cui l'attrezzatura è enorme, le persone sono moltissime, per cui anche il disagio teoricamente è di una certa entità, quindi questo non va non ricordato, che ne dice? Sì, effettivamente, però una parte di quello che io spero, voglio contraddirla, ma me lo permetta, cioè praticamente che crei questa gran confusione, diciamo, non è, io direi non eccessiva, perché sono 30 persone, 40, però ognuno di loro fa parte di un festa. Reparto, di un reparto che si attiva al momento che si deve attivare, spostare le luci, certo, per dire, ecco, gli altri stanno fermi. No, ma io non è che volevo così descrivere una mandria di animali che arriva sicuramente, sono professionisti, ci mancherebbe che poi spostano e rimettono a posto, naturalmente, però sembra è un bel impegno. Ma non è così, praticamente possono spostare delle cose, ecco perché allora ci deve essere una gran varietà di ambienti disponibili, perché la produzione cinematografica, quindi il regista sceglie quella dove è meno faticoso, è meno problematico ricostruire l'ambiente, cambiare, cioè un conto è cambiare delle tendine o dei soprammobili, no? Facilmente si può fare, è un conto trasformare la casa, questo non accade più forse i primi anni quando c'erano poche location certo, vi siete fatti molto più professionali anche voi. Rosa, la fermo un attimo perché devo tornare invece al settore del bed and breakfast, che pure sta suscitando molte curiosità per i nostri ascoltatori. Noi dicevamo prima di partire, insomma, ricordiamoci sempre che in ogni settore non ci si improvvisa se si vogliono avere dei buoni risultati, e per esempio una indicazione che credo sia interessante da dare ai nostri ascoltatori che magari ritengono di avere un'abitazione adeguata per aprire un bed and breakfast è anche che magari così realizzare dove si vuole fare questa cosa, perché magari si opera e si vuole operare in una città che è già satura di questa offerta. Quindi Gian Battista Scivoletto, titolare di bedandbreakfast.it, un portale con praticamente come dire un osservatorio abbastanza completo di tutta l'offerta italiana. Ho dato un'indicazione sbagliata o no? No, assolutamente, è un portale che contiene quasi 12.000 strutture italiane che operano nel settore della microricettività, la maggior parte dei quali bed and breakfast, circa il 70%. Quindi no, l'indicazione a cui mi riferivo era se, come dire, fare anche una valutazione dell'abitazione e del posto in cui si abita, della città in cui si abita, è un punto di partenza importante. Per... importantissimo, soprattutto secondo me del posto. Io non aprirei un B&B a Roma, perché oramai ce ne sono tantissimi, lo aprirei invece a Milano, dove è stata sbloccata quella legge che è stata ritenuta incostituzionale, che consentiva l'apertura del B&B nel condominio solo quando la riunione di condominio dava l'autorizzazione. In quali altre città invece, e poi appunto ulteriormente scivoletto, ci sarebbe secondo lei bisogno? Quindi diamo qualche suggerimento pratico. Ma io Milano sicuramente, l'offerta è minima ancora oggi. Quindi qua insomma bisogna... Sì, bisogna fare in modo che le famiglie si attivino. Sì, e poi in tutte quelle piccole città o borghi dove non è economicamente conveniente aprire una struttura ricettiva tradizionale, creare un indotto, seppur minimo, a una minima spesa, secondo me conviene. Benissimo, adesso sentiremo anche Calandra su questo punto, però a Stefano Calandra, presidente dell'Associazione dei Bed and Breakfast Italiani, se farei sentire anche la domanda di un ascoltatore da Lucca, che è Alessandro. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Lo chiamavo perché spesso si parla di questa cosa dei B&B. Io con mia moglie ne gestiamo due a livello familiare. Effettivamente è un lavoro che ha la possibilità di dare una rendita con cui vivere degnamente, per carità, però anche l'impegno a livello di responsabilità, certo, e a livello di orario di lavoro è molto, ma molto alto, perché l'orario di lavoro, non essendo un albergo e non avendo il portiere notturno, va dalle 7 la mattina quando si fanno le colazioni, poi si sistema le camere, poi si cerca di cominciare a vedere se cominciano gli arrivi, che sono nell'arco di tutta la giornata, comprese le ore notturne, perché non c'è, certo, niente di più facile che in stagione arrivino alle 10, alle 11, a mezzanotte, e uno deve essere disponibile, quindi ovvio, deve abitare in zona, deve avere la possibilità di lasciare i figli con qualcuno se ha figli piccoli. Quindi può essere insomma un'attività molto interessante, entusiasmante, ma è piena, piena di responsabilità e di impegno sicuramente, Alessandro. Per cui lei, come dire, suggerisce o no a chi fosse veramente interessato di attivarsi con questo tipo di attività economiche? Ho visto una cosa che è importante oggi come oggi: la qualità del prodotto che viene dato. Che è la stessa considerazione che faceva Calandra, sì. Sul basso costo è saturo, secondo me, la gran parte delle città, sia storiche che comunque turistiche, legate al mare, di quello che sono le anche perché ci sono molti alberghi molto vecchi che fanno tariffe molto basse. Mm-hmm. Quindi uno deve puntare sulla qualità, sul servizio e sulla locazione, perché avere anche un bel appartamento, ma in una zona comunque non centrale o non caratteristica della città che uno va a visitare, serve bene a poco. E infatti bisogna fare, come dire, anche degli studi, chiamiamoli così perché poi non è il termine sbagliato, di marketing, per capire, Rossella, assolutamente, se di fattibilità, tener conto anche che l'attività di bed and breakfast prevede un'apertura temporanea, un'attività saltuaria, quindi non si può fare bed and breakfast tenendo aperto 12 mesi all'anno, quindi immaginando un arco temporale, pensare anche a come cercare di riempire per tutto quel periodo. Mamma mia, quante domande, la puntata mi sta scivolando di mano, vorrei farvi intervenire tutti, non ci riuscirò mai, ne rifaremo altre di puntate su questi argomenti. Allora, Stefano Calandra, presidente dell'Associazione dei Bed and Breakfast Italiani, ammettendo di aver trovato il posto giusto, di avere la casa giusta, tutta la pazienza necessaria per imbarcarci in un'avventura economica di questo tipo, quanta carta dobbiamo produrre per avviare un'attività di bed and breakfast? Dobbiamo perdere molto tempo anche dal punto di vista burocratico? Ma guardi, la ringrazio della domanda, anche l'ascoltatore prima ha detto le cose giuste, cioè l'impegno c'è, la carta iniziale è abbastanza ben maggiore di quanto venga riportato dalle leggi regionali, ci sono molte leggi anche tecniche, sanitarie, della sicurezza sul lavoro, antincendio, che vanno osservate inizialmente. Ma è una burocrazia che, per esempio, noi, ma anche molti studi di consulenza, ma chi entra in AMBA subito, immediatamente le risolve accedendo a una serie di servizi che i soci si sono predisposti per se stessi con dei costi molto bassi. I nostri soci, anche quando facciamo le rilevazioni statistiche, risultano essere mediamente più profittevoli come attività, quindi ci attestiamo intorno a 30-35 mila euro, certo, di fatturato all'anno, però la rilevazione è fatta su 700 soci e aziende all'anno. Certo, perché praticamente fuori, avete il quadro della situazione, delle cose che vanno fatte, per cui chiaramente date subito delle indicazioni concrete e se si seguono poi ovviamente... Ma sono i soci che l'hanno voluto, perché praticamente quando si apre, quello che constato, che constatiamo tutti, è che il B&B, il gestore, è quasi sempre una persona non professionalmente preparata, non viene dal campo del turismo, ma inizia un'avventura. Anche prima la signora Rossella ha detto, secondo me è un'inesattezza, cioè mi perdoni, ma è quella del fatto che il B&B non possa lavorare tutto l'anno. Il B&B deve poter lavorare tutto l'anno, proprio perché l'attività del lavoro è libera, il mercato è libero. Alcune leggi regionali vogliono delegare il B&B a un'attività saltuaria, ma questo è illegittimo dal punto di vista dell'imposta. Rossella effettivamente riportava quello che sapeva sulla base, diciamo, di quanto stabilisce la legge. Ecco, no, quindi... ma voglio fugare ogni dubbio, cioè il B&B è un'attività che non è solo saltuaria, può anche essere un'attività commerciale. Ma questo a seconda della regione in cui si opera, dottor Calandra? Indipendentemente, perché le regioni laddove legiferino in maniera restrittiva rispetto ai giorni di lavoro e rispetto anche alla possibilità o impossibilità di aprire partita IVA, quella parte è illegittima, quella norma è illegittima. L'attività di B&B si può aprire senza partita IVA, può e deve sfociare in un'attività imprenditoriale e raggiungere il raggiungimento di... Va bene, adesso parametri. Non vorrei, come dire, addentrarmi in questo terreno che mi sembra complicato, volevamo rimanere un passo un pochino indietro. Di fatto comunque bisogna essere molto attenti, non è che si prende e si parte nel giro di una settimana. Magari guardiamoci intorno, facciamo un giro anche nelle strutture che abbiamo intorno a noi per capire un po' come funzionano, e quindi attenzione, come per tutte le attività imprenditoriali, anche questa va presa molto seriamente. E però stamattina il cavallo di battaglia di Salvadanaio rimane il set cinematografico, adesso a raffica. Chiudo la trasmissione da qui ai prossimi 4 minuti che mi rimangono con le domande per Bruno Rosa e comincerei rapidamente con Michelangelo da Milano. Michelangelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, no, io è interessantissimo tutto, quindi arrivo al punto. Io ho un classico villone di famiglia con un grande parco nel Veneto vicino a Verona, e diciamo che abbiamo ristrutturato tutta la parte dei fienili e del tetto, dentro è rustico, però allora io mi chiedevo come potevamo portarlo a reddito, nel senso anche come famiglia, e questa idea di creare una scenografia o comunque un set cinematografico era interessante. Creiamo la scenografia, Michelangelo. Allora aspetti lì, sento anche Tiziana da Chieti, quindi così almeno accontentiamo un po' più ascoltatori. Tiziana, buongiorno. Salve, io volevo semplicemente raccontare che io ho già dato casa mia per come set cinematografico per un film della Rai. E devo dire che aveva ragione lei quando diceva che la vita viene scombussolata perché viene riempita la casa di... Non si è divertita per niente, almeno le hanno... Tiziana, le hanno portato almeno qualche attore famoso, si è divertita almeno da quel punto di vista lì, oppure... Renzo Montagnani, che ha scritto tanti versi su... cioè era uno che scriveva tante poesiole, molto simpatico. Poi c'era Alessandra Martinez, antipaticissima. Vabbè, insomma, pure questo. Vabbè, detto questo, insomma, lei l'ha fatto già una volta gratuitamente, adesso sì, dice fatto, grazie. Gratuitamente nel 91, sì. Però adesso, ascoltando questa trasmissione che mi piace tantissimo, e purtroppo posso ascoltare solo con l'iPhone, perché sul... va bene, è importante che ce l'abbiamo un modo per ascoltarlo. Ma ogni tanto mi scappate via, devo riprogrammare tutto, un macello. Devo... Quindi Tiziana, vabbè, il tema che lei vorrebbe magari riproporre, la sua abitazione è sempre per un set, però... Sì. Non... Volevo sapere se il fatto che sia Chieti, quindi una città piccolina... possa pregiudicare la possibilità o meno di proporla. Rosa, non è che siete, come dire, un po' razzisti con le città, no, voi potenzialmente interessa tutto. No, veramente, noi stiamo raccogliendo materiali in tutta Italia, proprio perché il cinema è dovunque, no? Secondo il copione, se c'è, occorre un casale o una storia in Umbria, il casale anche perché poi Umbria. Una casa non è che la si può magari arredare in maniera diversa, ma non si può utilizzare 20 volte e poi renderla riconoscibile in 15 film, quindi ecco. Ma io vorrei tranquillizzare anche quest'ultima signora che ha parlato, e che adesso non è più così, appunto 10 anni fa, probabilmente. Adesso c'è una a parte sempre la professionalità, ma insomma ci sono produzioni che quando entrano si comportano molto molto bene, cioè spostano delle cose. Voi ovviamente date le massime garanzie anche da quel punto di vista, perché noi ovviamente parliamo solo di fonte di introito economico, ma ovviamente bisogna essere anche molto chiari dall'inizio in questo tipo di rapporto. Sì, ma infatti c'è un'assicurazione stipulata già dalla società di produzione che ha il film, ha iniziato il film, e quindi, ma questo per tutelare loro stessi della società di produzione, di conseguenza anche i proprietari, perché è chiaro che se c'è un danno deve essere risarcito, certo. Quindi, sotto questo aspetto non c'è alcun problema e non è che distruggono case eccetera, dirò proprio io ecco 30 anni di questo lavoro la mia società, la Set Service, avrebbe fosse chiuso, sarebbe andata fallita, però, quindi insomma c'è molto rispetto. Le lamentele, no, da parte dei vari proprietari, io ho una media di 2 volte al giorno, significherebbe sentirmi dire dalla signora X, capisci? Allora questa invece no, non accade. Accade una volta al mese che qualcuno mi dice, l'ultima mi ha detto sai, mi hanno preso uno Chanel numero 5, però aveva preso 3.000 euro al giorno. Senta Rosa, ho questa domanda: se una persona è in affitto, non ha la casa di proprietà ma magari si è affittato una bellissima casa, la posso subappaltare a voi come set cinematografico, ci chiede un ascoltatore? Mi perdoni, sì, la casa... Se la casa è affittata, io ho una casa ma ci abito in affitto, non è proprietà. No, deve essere un accordo col proprietario. Può essere anche... ci vuole una dichiarazione da parte del proprietario che autorizzi in quell'occasione la signora e il proprietario, l'inquilino, insomma. Rosa, allora... mi ascolti, ho tantissime domande da parte di molti ascoltatori, non riesco ad accontentare tutti, c'è anche Daniela da Roma che voleva intervenire, ha una villa in Umbria, in un borgo, città della Pieve, 6.000 metri quadrati di terreno intorno, vorrebbe impiegare questa casa sia come location che come bed and breakfast. Allora, intanto rapidamente le informazioni per raggiungere la sua società, sito internet. Allora, magari, sì. La mia società è Set Service. Il sito internet è questo, www.setservice.it oppure www.locationset.com. Benissimo. E io sono Bruno Rosa, il titolare. Esattamente. E quindi ecco, accettiamo, c'è un form da riempire dove si propone la propria struttura. Noi poi quando ci perviene richiamiamo e non tanto velocemente. E soprattutto le istruzioni per le foto, che siano fatte bene. Grazie Rosa Calandra per i Bed and Breakfast, tante informazioni, tante richieste di informazioni anche per questo. Andiamo sul vostro sito? Sì, il sito dell'associazione nazionale www.amba.it con 2B, lo ricordo, Ancona, sì. Napoli, Bari, Bari, Ancona.it, ed è l'associazione che comprende altre associazioni e 21 delegazioni in Italia. Benissimo, non sono riuscita più a far parlare Rossella Cadeo, ma è un'amica, mi perdonerà e la reinviteremo un'altra volta sicuramente. Grazie a tutti, a domani.